Wow. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Wow. Aspe. Si scese lo stud, ma stai ancora a nur. Tieno solo in da luce, però voli sta luna. A te ti piace fa l'alba, a te ti piace fa tarda. A me mi piace si balla, a me mi piace un sacco. L'uscina mi amiscano tutte bende, per abbino uno band. Ma la vita carabina si tremenda. Mi piace con pigiama rilassato, oppure quando stai ingazzato, oppure quando dice ti amo sotto voce nei messaggi. E mi muovo, sempre piano piano, rindo core due. Se no vengo cacciato, se no vengo pigliato come un solito maschio. Che potrò una kill, e poi non già fa manca. Ne capite si cammina, chi ti mira sempre. Tu cammina ma da tiro tu lo cala rete. Tu mi piace come piace cosa canza buoni. Cosa canza buoni. Me ne vaga però fosse torno. A te chi ti dice che no. Siccome non suona che non fare un mie. Si ma ti chi sa to. A te piace solamente fa soffrire. Tu stai ballando rano. Si sotto una musica tu fai partire. Ma mi si ritta una volta. Cavo sta con me non te ne vuoi giungere. Tutto gira a me, mi gira attorno. Su aiuto che ci prova da noia. Perché non ti tene testa e tu non lo ricomprensi. Ma qualche rinda cinta, sto per rifacimo. Tutte cose nata a volte viene meglio. Tu sei solo in Miami, o Fried in New York. Se ho Grigi e Parigi, che rendo unica e sola. Ma che deve presto siamo giovani. Ti ma noi ci aspetta, ma bella e buona parte ci perde. Ma sta noi a scegliere con mamma, spendere tutto sto tempo. Diviso, lontano, vicino, insieme. A fiamma è una fiamma che si vuole scaffo pure. Si sta vicino troppo, da brucia. Ovvio da aspetto giù in ore, ci metto 10 anni per scendere la coppia fornuto. A te chi ti dice che no, siccome non suona che non fare un mio. Insieme a te chi sa donna, a te piace solamente fa soffrire. Tu stai ballando da noi, chi sotto una musica tua fai partire. Ma mi sto ritto una volta, cavo sta con me non te ne voglio chi. A te chi ti dice che no, siccome non suona che non fare.